cerco di capire, che cerco di vedere anche quello che non c'è. Io mi inventerò una scusa, ti faccio una sorpresa, ti vengo a prendere. E via, andiamocene via da questo mondo infame che non ci vuole più. Su via, andiamocene via, ti prenderò giù a scuola e ce ne andremo via, ma con te vedo te. È una vita già finita, ma con te vedo te. Nel tuo cuore canta l'amore, è finita. Io che cerco di inventare tra gli angoli del cuore la tua vivacità. Tu che splendi più del sole, riscaldi questo mare che gela dentro me. Noi due, diversi più che mai, staremo bene insieme e questo tu lo sai. Su via, andiamocene via, ti prenderò giù a scuola, sarai bella più che mai, ma con te vedo te. È una vita che è finita, ma con te vedo te. Nel mio cuore canta l'amore, è finita. Ma io piango per strada pensando a te, mi addormento la sera pensando a te, salgo sopra il mio treno ma penso a te. Ma con te vedo te. Solo il cuore chiama amore, ma con te vedo te. Solo il cuore canta l'amore, è finita. Tra gli angoli del sole, è finita.